comincia il mare. Qualche volta resto solo fermo ad ascoltare il suono delle onde. Dove comincia il cielo, guardo scorrere il tramonto, dietro l'orizzonte scendere in silenzio. Dove comincia il vento, rondini si sfiorano. Dove comincia il mondo, anime si cercano. Ma lei non è qui, né mai verrà, è incatenata ad una sola realtà e vive nell'incapacità di riconoscere la verità. Così patisce il tempo che va via, negando il mito che ogni uomo sia più della poesia che Dio ha scritto per tutti noi, per tutti noi, per tutti noi, per tutti noi. Dove comincia il mare, ho disciolto il mio dolore ed ho imparato a perdonare ogni mio errore. Dove comincia il cielo, ho aspettato il nuovo giorno avvolto nei colori dell'arcobaleno. Sì, dove comincia il vento, ali di pace volano. E pace sia dove comincia il mondo, anime in pace danzano. Lei non è qui né mai verrà, è incatenata ad una sola realtà e vive nell'incapacità di riconoscere la verità. E così patisce il tempo che va via, negando il mito che ogni uomo sia più della poesia che Dio ha scritto per tutti.